fratello e da padre, sono qui a chiedere per i miei adorati figli, fratelli, dalla notte dei tempi che si sentano amati. Nazareno, a presto.